Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno, benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, ben ritrovati. Oggi torniamo a parlare di una grande banca per altri motivi rispetto a quelli che hanno visto ieri invece lo stesso tema protagonista della nostra trasmissione, perché ieri appunto abbiamo parlato del prestito convertendo della Banca Popolare di Milano, che è stato appunto al centro della nostra attenzione perché lo è in questo momento questa vicenda al centro di almeno 15.000 risparmiatori italiani. Oggi i riflettori di Salva Danaio si spostano di poco a Milano, per la verità, Piazza Cordusio, Unicredit che ieri è stata protagonista di un vero e proprio crollo in borsa, un crollo che si sta propagando anche oggi, meno 10,36%, 4,85 euro, una performance che sta portando con sé anche quella di tutte le altre banche italiane. Intesa, meno 5,5 punti, così come il Banco Popolare che fa meno 5,8 adesso, meno 5,60 UBI Banca, meno 5,53% Monte dei Paschi. Mi fermo qua, ma le altre banche vanno tutte quante male. L'unico titolo positivo in questo momento a Milano è Fiat SPA, più 2,56%. Cosa succede? Allora, ne abbiamo parlato tanto in questi giorni. A novembre scorso il gruppo ha deciso un aumento di capitale da 7 miliardi e mezzo di euro necessario a soddisfare le richieste che arrivano dall'alto, precisamente dall'EBA, l'autorità bancaria europea, che ha rivolto questa richiesta appunto a molte altre banche europee per l'appunto ieri, e questa è stata la notizia che ha fatto crollare il titolo. Il consiglio di amministrazione della banca ha stabilito il prezzo con il quale questo aumento di capitale, che parte lunedì, verrà fatto, 1,94 euro per azione, con uno sconto del 43% rispetto al prezzo teorico ex diritto. Poi nel corso della trasmissione vi spiegheremo che cosa indica questo termine, finanziariamente parlando, tecnico. Non mancherà occasione appunto nel corso della puntata di entrare entro ulteriori dettagli a questo proposito e tornarvi a spiegare appunto cosa significano questi termini e questi numeri. In ogni caso, lo sconto non è piaciuto alla borsa, che lo ha considerato eccessivo, anche se aveva ipotizzato il mercato un range di scontro fra il 35 e il 45%, probabilmente se ne aspettava però nella realtà un inferiore, intorno al 40%. Dicevamo, l'aumento partirà lunedì prossimo. Per molti investitori, pensiamo soprattutto ai più piccoli, questo è il momento di prendere in mano la calcolatrice e capire se può essere conveniente o meno cogliere questa opportunità. Questa mattina, in un'intervista sul Sole 24 Ore, l'amministratore delegato di Unicredit Federico Ghizzoni ha ricordato che il 15% del capitale di Unicredit è in mano agli investitori retail, quindi risparmiatori molto piccoli, per cui immaginiamo quale fetta appunto di investitori possa essere interessata a questa operazione, oltre ai grandi naturalmente, che hanno già chiarito le loro intenzioni, che cosa intendono fare, se aderire o meno a questa operazione, soprattutto perché quota, perché anche i grandi azionisti, non tutti, parteciperanno all'aumento di capitale per la cosiddetta quota pro parte. Appunto, poi vi spiegheremo perché e per quale ragione ogni socio appunto ha esplicitato in questi termini la propria intenzione. Chiaramente potrete intervenire all'800 24 00 24 per le vostre domande, e ce le potete fare con questa modalità in diretta. Le altre alternative ci potete scrivere al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Noi siamo anche sul social network, siamo su Facebook, salvadanaio-radio24. C'è già peraltro Antonio che ci ha scritto ancora prima di iniziare la trasmissione e ci chiede, dice: ho tre domande velocissime. Domani la borsa è aperta? Sì, siamo qua in diretta regolarmente. Io sono fuori da Unicredit ma volevo entrare, ovviamente in un'ottica di diversificazione. Se lo faccio oggi ricevo anche le opzioni? Infine, per me qual è il calcolo della convenienza che dovrei fare? Antonio, adesso magari partendo da altri casi ragioneremo su Unicredit, visto che lei, da quello che capisco, non è attualmente azionista, per cui l'aumento di capitale le interesserebbe da un altro punto di vista, e cercheremo appunto di risponderle nel corso della trasmissione. Adesso andiamo a vedere anche magari gli altri casi di borsa, se volete. Vi ho già spiegato i più importanti. Insomma, oggi c'è in movimento anche Fiat, perché in pratica si è concluso il terzo step dell'accordo con gli americani di Chrysler e sostanzialmente c'è stato un ulteriore incremento nella partecipazione nell'azionariato appunto della casa americana. Fiat attualmente è al 58,5%, il rimanente 41,5% della casa automobilistica statunitense è posseduto dal fondo del sindacato Viva, Fiat ha questa performance ed è l'unica positiva in questo momento a Milano. C'è Pirelli che fa più 0,07, per il resto tutte le altre prestazioni sono con il segno meno. Abbiamo monitorato oggi anche la Francia, perché il listino perde l'1,10%, perché oggi c'era la prima asta importante di titoli francesi di OAT, scadenze a medio-lungo termine, direi anche abbastanza lungo. L'asta prevedeva di collocare, la Francia prevedeva di collocare circa 8 miliardi di euro di titoli, li ha collocati tutti e peraltro la domanda è stata addirittura doppia rispetto all'offerta, per cui insomma c'è questo buon andamento, ma questo non porta il listino appunto a guadagnare terreno. In ogni caso per la Francia lo stesso, oggi performance negativa, e praticamente da quello che posso conteggiare i listini europei hanno già perso tutto quello che avevano messo in cantiere guadagnando i primi due giorni dell'anno. C'è Deutsche Bank anche a Francoforte che fa meno 6,35%, anche in questo caso per una prospettiva di necessità di ricapitalizzarsi per quello che riguarda questo gruppo. Adesso sono andata a vedere anche sul listino francese quali titoli trascinano a ribasso il listino intero, e sono tutte le banche: Societe Generale meno 4,59, BNP Paribas meno 3,83, AXA meno 3,70, Credit Agricole meno 3,53%, qua insomma abbiamo, non so se anche sulla Francia si può parlare di un effetto Unicredit, ma magari anche sì, potrebbe anche essere questo il motivo che porta giù tutte le banche europee. Allora, vi ho già dato sì, una cosa leggermente importante, non vi ho detto chi sono gli ospiti che stamattina mi aiuteranno a capire qualcosa di più dell'aumento di capitale di Unicredit. La nostra esperta di banche, Valeria Novellini, analista finanziaria dell'Ufficio Studi del Sole 24 Ore, la mia collega che ormai, soprattutto da quando con l'ufficio si è ritrasferita e lavora praticamente a due passi da me, ormai non faccio altro che chiamarla per tutte le rogne di borsa. Valeria, buongiorno, bentornata. Buona giornata. E buongiorno anche, bentornato, buon anno naturalmente ad Antonio Tognoli, vicepresidente di Integra Sim, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, io ho ricordato tutte le modalità per far intervenire i nostri ascoltatori, adesso riproponiamo un po' i termini di questo aumento di capitale che risulta essere molto penalizzante a quanto vediamo almeno dalla reazione di borsa. Allora sentiamo un po' quali sono le condizioni di questa operazione straordinaria sul capitale di Unicredit. Ieri il titolo Unicredit è stato protagonista di un vero e proprio crollo in borsa, arrivando a cedere il 14,45% e toccando livelli che non si vedevano da 20 anni. Una giornata nera. All'origine di tutto, le notizie diffuse nella prima mattinata, quando il CDA del gruppo bancario si è riunito per stabilire il prezzo dell'aumento di capitale, che partirà lunedì prossimo, 1,943 euro per azione. Verranno quindi emesse due nuove azioni per ognuna di quelle già in circolazione. Nuove azioni che potranno essere acquistate dai possessori di diritti, cioè da chi già ne deteneva, a 1,943 euro l'una, con uno sconto del 43% rispetto al prezzo dei titoli scambiati in borsa il 3 gennaio. I diritti di sottoscrizione possono a loro volta essere venduti. Si potranno scambiare a Piazza Affari dal 9 al 20 gennaio, dopodiché ci sarà tempo fino al 27 per sottoscriverli. Il mercato aveva scommesso su uno sconto più limitato, ipotizzando al massimo un 40%. Ed è certo che la borsa non abbia gradito l'annuncio. Ma i piccoli investitori cosa ne pensano? Calcolatrice alla mano, dovranno capire se aderire all'operazione potrà rivelarsi conveniente oppure no, in base alle esigenze di ciascuno. Nel frattempo, i riflettori resteranno senza dubbio tutti puntati su Unicredit e sulla cifra di 7,5 miliardi di euro fissata per la ricapitalizzazione, necessaria per soddisfare le richieste arrivate, anche in Piazza Cordusio, dall'autorità bancaria europea. 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande. Peraltro abbiamo già in linea Ottavio da Roma, che è un ascoltatore che ci aveva scritto ieri pomeriggio, che questa mattina abbiamo interpellato per farci raccontare il suo caso. Gli chiedo ancora un minutino di pazienza, perché prima vorrei fare il giro di commenti con Valeria Novellini ed Antonio Tognoli, e poi vedo già anche molti ascoltatori che ci hanno scritto al 349 238 6666. Scriveteci anche a salvadanaio@radio24, oppure su Facebook, se invece siete appassionati animatori del social network avete anche questa opportunità. Noi siamo su salvadanaio-radio24. Allora Valeria, prima di tutto, per la verità ci sono delle interpretazioni abbastanza discordanti su questa reazione del mercato rispetto a questo crollo registrato nel giro di due giorni. Ieri quasi il 15% di ribasso, oggi meno 10,69 in questo momento, raffica di sospensioni chiaramente ad intermittenza. Il titolo adesso vale 4,84 euro. L'aumento di capitale da lunedì si farà a 1,94 euro. e 30. Allora, questo significa intanto che tecnicamente parlando il mercato sta scivolando lentamente verso il prezzo dell'aumento di capitale. Dovremo ancora arrivare a vedere una perdita di questo tipo. Ci sono anche delle ragioni tecniche, ma ci sarà anche un limite a questa discesa, secondo te, secondo la tua interpretazione? A livello dell'aumento di capitale naturalmente non si arriverà, perché in quel caso a quel punto l'operazione non avrebbe più alcuna convenienza da parte di coloro che dovessero aderire. In realtà lo sconto è stato fissato così alto rispetto al prezzo ante partenza dell'aumento di capitale, proprio in vista del fatto che dovrebbe essere particolarmente conveniente acquistare le azioni a questo prezzo rispetto ai prezzi precedenti. Il fatto è che purtroppo, come sappiamo, il titolo Unicredit aveva già perso quasi il 60% nel corso del 2011, e per cui la stragrande maggioranza degli azionisti, sia piccoli che grandi, le fondazioni, hanno il titolo in carico a un prezzo molto più elevato, quindi si trovano ad acquistare, è vero, le nuove azioni a un prezzo molto scontato, però nonostante questo il prezzo medio di carico che si troveranno ad avere delle loro azioni sarà ancora molto più elevato rispetto al prezzo di borsa. Tra l'altro, molto tempo prima di individuare il prezzo dell'aumento di capitale, quando si conosceva solamente quello che sarebbe stato l'ammontare dell'aumento di capitale, 7,5 miliardi, i grandi soci avevano già fatto capire abbastanza chiaramente che avrebbero probabilmente aderito, anche per senso di responsabilità, a questa operazione straordinaria, ma non tutti lo avrebbero fatto per la quota di competenze, e questo probabilmente è stato un altro dei motivi che ha portato ad individuare un prezzo così basso, anche perché probabilmente sarà necessario aprire le porte anche ad altri soci che fino a questo momento non sono stati in Unicredit, no? E quindi bisognava attirarli in qualche maniera, Valeria, no? Mia interpretazione, ma ieri anche qualche analista ci ha spiegato che forse anche questo è accaduto. Anche questo sicuramente è accaduto. Per esempio la Fondazione Cariverona ha dichiarato un impegno per il 3,51%, mentre la sua quota attuale è superiore al 4%, quindi non aderirà per tutte le azioni in suo possesso. Inoltre teniamo conto che alcuni dei grandi azionisti materialmente, tra virgolette, non possono aderire, in quanto Unicredit è caratterizzato nell'azionariato da alcuni azionisti di nazionalità libica, ai quali non sono ancora stati svincolati la possibilità di utilizzare i propri fondi, tra cui per esempio la Libyan Investment Authority, e quindi alcuni al momento non possono materialmente aderire a questa operazione. Quindi c'è anche questa ragione, quindi altre motivazioni di natura tecnica che portano anche a questo ribasso. So che però Antonio Tognoli, vicepresidente di IntegraSim, vuole ulteriormente arricchire la rosa dei motivi per cui c'è questa discesa così forte del titolo, iniziata ieri e che sta continuando oggi, e chissà se la Befana domani porterà un regalo, non dico un rimbalzo, ma quantomeno uno stop. Cos'altro non ha convinto di questo aumento di capitale e delle condizioni che sono state dettate per questa operazione, Tognoli? Sì, ma insomma, al di là dei tecnicismi vari del tipo ma nel momento in cui l'annunci l'aumento di capitale il prezzo scende perché poi coi diritti tra virgolette giochi con questi, o al di là di questo è chiaro che gli investitori si interrogano su altre cosette. Per esempio la prima è comunque Unicredit ha appena fatto una svalutazione in generale da 11 miliardi e avrebbe magari potuto aspettare per fare l'aumento di capitale a 6 mesi e probabilmente l'avrebbe fatto con uno sconto minore. Allora il mercato dice ma se lo fa subito vuol dire che la situazione è ancora più grave di quella che ci aspettavamo, prima cosa. Seconda cosa, sempre il mercato. Tra l'altro, mi scusi se la interrompo, Tognoli, ma questa sì, è una curiosità. L'EBA ha imposto degli step precisi per la ricapitalizzazione delle banche alle quali lo ha chiesto, quindi diciamo anche tutta questa fretta, anche su Unicredit, per la verità negli ultimi due aumenti di capitale che ha fatto li ha fatti tutti quanti all'inizio dell'anno, si toglie subito il problema senza poi pensarci più. Mi chiedo se l'EBA vi ha chiesto anche degli step precisi. Ma no, entro giugno Europa si devono trovare circa 106 miliardi, ma insomma, e presumibilmente la situazione entro giugno dovrebbe essere migliore, poi magari non lo è, però presumibilmente con le manovre economiche la situazione dell'Italia, soprattutto dello spread e quindi del costo dell'approvvigionamento delle banche, che attualmente è intorno al 4% per Unicredit, dovrebbe essere migliore. Quindi insomma, già il mercato si interroga su questo. Mm-hmm. Prima cosa. Seconda cosa, gli investitori, che non è detto che non aderiscano, però si interrogano e dicono: c'è un piano industriale, ci sono le attività tedesche, c'è il management che dovrà essere rinnovato, va bene il management che non mi dici quale possa essere, però quantomeno un piano industriale e le attività tedesche fammi capire cosa vuoi fare, altrimenti io devo fare un atto di fiducia, che può andar bene, però voglio dire, sempre di atto di fiducia si parla. Citavi l'intervista sul Sole, da lì si dice: ma sì, io faccio un aumento di capitale, Unicredit, e poi cosa faccio? Parte di questo aumento servirà in modo sensibile per la crescita dei mercati e sostenere le imprese. Sì, quanto? Anche qui gli investitori si interrogano dicendo: va bene, ma cosa vuol dire? Vuol dire che tu hai 7 miliardi e mezzo che incassi dall'aumento di capitale, ma quanto destina al sostegno economico della crescita? Modo sensibile non vuol dire nulla, soprattutto in questo momento. Diciamo, questo mix di considerazioni è chiaro che da un punto di vista fondamentale porta gli investitori a dire: beh, ma allora se dovevi farlo in fretta, se non mi dici, faccio un atto di fede, lo faccio, per carità, va bene, però sappimi dire qualcosa in più, esattamente come qualsiasi altra impresa industriale, non è che la banca sia qualcosa di diverso. Quindi diciamo questo meno 15% di ieri, questo meno 11% che si sta toccando in questo momento contempla ragioni di natura tecnica e ragioni anche di natura industriale, insomma, che si sono naturalmente accumulate tutte quante in questo frangente nel momento in cui si conoscono i dettagli dell'operazione dell'aumento di capitale, che ricordiamolo peraltro, Valeria, partirà lunedì prossimo, durerà fino al 20 gennaio, però anzi no, durerà fino al 27 gennaio, fino al 20 gennaio c'è tempo di fare che cosa? Perché anche la questione dei diritti di opzione rispetto all'aumento è fondamentale anche ai fini proprio del calcolo del prezzo che è stato scelto per effettuare l'aumento di capitale. Ecco appunto, fino al 20 sarà possibile negoziare, cioè comprare o vendere i diritti di opzione sul mercato, questo su tutti i mercati su cui Unicredit è trattata, quindi non solo l'Italia ma anche la Germania e la Polonia. Esiste in questo momento un valore dell'opzione? Di sottoscrizione o meno dell'aumento di capitale? Esiste naturalmente un valore teorico, nel senso che se io prendo le azioni voglio rispondere a quello che chiedeva l'ascoltatore in precedenza, se acquista le azioni oggi ed anche domani avrà ancora diritto a poter partecipare all'aumento di capitale. Per quanto riguarda il diritto di opzione teorico, si calcola semplicemente prendendo il prezzo di mercato di un'azione Unicredit di oggi e poi aggiungendo a questo prezzo il prezzo di esercizio di due nuove azioni per ogni una posseduta, quindi 1,943 per ogni azione posseduta. Dopodiché io che cosa ho? Io avrò tre azioni. Prendo la somma totale, prezzo della vecchia azione più le due nuove azioni che ho ottenuto al prezzo dell'aumento di capitale, sommo questo e naturalmente lo divido per tre. Questo è il prezzo teorico ex opzione mamma mia, poi ce lo rifai tutto il procedimento, sì. Valeria, così lo facciamo mettere bene in testa ai nostri ascoltatori che dovranno farlo probabilmente per fare il loro calcolo di convenienza sull'adesione o meno all'aumento di capitale. Allora direi che possiamo già cominciare a sentire i nostri ascoltatori per cominciare subito, se ce la faremo, a sciogliere i loro dubbi, ma il tema è capire se vogliono continuare ancora ad essere azionisti di un gruppo che, per la verità, gli azionisti piccoli e grandi ha già chiesto molti sacrifici negli ultimi anni, perché Tognoli, ricordiamo che quello che è stato definito sul Sole 24 Ore da Fabio Pavesi l'aumento di capitale monstro degli ultimi anni è il terzo che Piazza Cordusio fa nel giro di 3 anni, per l'appunto. Sì, esattamente, quindi questo a maggior ragione avvalora, come dire, i punti di domanda del mercato, e che dice: allora hai comprato una banca tedesca, hai comunque nell'ultimo piano dismesso completamente l'attività di investment banking, perché così è non fai più quel mestiere, quindi una parte di rischio non te l'assumi, hai svalutato per 11 miliardi, che evidentemente non sono tutti titoli di Stato, ma mi hai chiesto tra aumenti di capitale, ma che tipo di gestione della banca hai fatto negli ultimi 4-5 anni? Visto che esatto, e comunque l'andamento del titolo esprime abbastanza bene questi dubbi che lei ci ha raccontato. Allora andiamo a sentire, sì, credo che probabilmente sentiremo solamente la domanda per rispondergli dopo, allora prendo il più sintetico, poi Ottavio da Verona, visto che ha già avuto molta pazienza, gli chiedo di averne ancora un po'. Volevo sentire Giorgio da Ferrara. Giorgio, buongiorno. Pronto, buongiorno. Niente, io mi facevo portavoce di quelli che si erano collegati in ritardo, mi pare comunque... Ma non abbiamo cominciato da tanto, Giorgio, non si preoccupi. No, ma non avevo perso la distribuzione, cioè praticamente mi pare di capire che danno due azioni ognuna posseduta, quindi uno che ha 1000 azioni deve pagare, mi pare... sui 3.800-3.900 euro. Esattamente, esattamente. Tra l'altro lo stesso discorso vale anche per chi detiene azioni di risparmio, vero Valeria Novellini? Sì, sì, l'offerta è sempre di azioni ordinarie destinate in uguale misura alle azioni ordinarie e di risparmio possedute. Salva Danaio. Eccoci ritrovati a Salvadanaio, Salvadanaio che oggi affronta, diciamo che come temi di inizio anno quest'anno non ci siamo proprio fatti mancare niente in termini di mattonazzi sullo stomaco, i saldi che non andranno bene perché ci sono tutte le difficoltà delle famiglie italiane, i mercati che dopo aver brindato due giorni sono tornati a scendere tanto, non è neanche il 6 gennaio e due casi bancari che stanno preoccupando un po' molti piccoli risparmiatori, ieri il caso del prestito convertendo della Banca Popolare di Milano, oggi l'aumento di capitale di Unicredit. Tra l'altro, prima di risentire anche gli altri ascoltatori, per chi è del tutto a digiuno di terminologia finanziaria e di problematiche di questo tipo, perché dalla borsa sta molto lontano, anche se con il tema dell'aumento di capitale ci siamo un po' anche resi più confidenti, più padroni un po' di queste operazioni, perché ne sono state fatte tante negli ultimi anni, soprattutto le banche continuano a farne in continuazione. Ci fai, Valeria Novellini, proprio un ABC di 60 secondi per spiegare in termini molto semplici che cosa vuole una società quotata quando ai suoi azionisti piccoli e grandi chiede altri soldi attraverso l'operazione dell'aumento di capitale? Beh, trattandosi ovviamente in questo caso di un aumento di capitale a pagamento ed anche piuttosto consistente, diciamo che vuole ottenere dei fondi da impiegare in un certo modo. In questo caso la motivazione è evidente, perché si tratta di soddisfare le richieste dell'EBA che, parliamoci chiaro, ha chiesto 7,97 miliardi a Unicredit per raggiungere i requisiti patrimoniali da lei indicati. E Unicredit con questa operazione ne raccoglierà 7,5 miliardi nominali, ma detratte le spese varie circa 7,25 miliardi, quindi comunque saranno necessarie altre misure più lievi ovviamente di riaggiustamento. Tra l'altro c'è un ascoltatore, Marco, che su Facebook ci scrive: cara Debora, per cortesia faccia mettere qui per iscritto quello che ha appena spiegato la sua ospite riguardo al calcolo del diritto di opzione appunto sull'aumento di capitale, perché è davvero difficile da seguire. Magari Marco, poi oltre a riscriverlo su Facebook, cercheremo anche di rifarvi di nuovo questo calcolo. Comunque il diritto di opzione che cos'è? Avendo delle azioni Unicredit, Valeria, in pratica il mercato dice: tu hai la facoltà di sottoscrivere o meno l'aumento di capitale, hai questa opzione, se non vuoi fare l'aumento di capitale però puoi vendere l'opzione. Ma certamente che puoi vendere l'opzione sul mercato, però attenzione, per chi fosse certo, assolutamente certo, che non vuole esercitare il diritto di opzione, quindi non vuole aderire all'aumento di capitale, consiglio, come per tutti gli aumenti di capitale, di vendere l'ultimo momento. No, di vendere i diritti subito. Perché siccome i sistemi automatici delle banche prevedono in automatico, per evitare una perdita certa ai risparmiatori, di vendere i diritti l'ultimo giorno utile per tale operazione, che in questo caso sarà il 20 gennaio, allora se io invece sono sicura che non voglio aderire, è meglio evitare l'ultimo giorno in cui molti diritti saranno buttati sul mercato. Quindi tendenzialmente i primi giorni dell'aumento di capitale. Benissimo. Ottavio da Verona, Ottavio, buongiorno, grazie per averci scritto e per aver anche così accettato di intervenire. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, io ho già fatto una cosa, ho già partecipato felicemente all'aumento di capitale sociale del Banco Popolare. Cosa è successo? Che sono andato a, invece di vendere i diritti di opzione che sono arrivati a un euro, no, sono andato a investire mettendo nuovi soldi. Quando dopo avrei potuto comprare quasi le stesse azioni allo stesso prezzo del diritto di opzione. Ora mi chiedo, no, ma alla fine io se faccio questo movimento anche con Unicredit, cosa faccio? Lo faccio solo per abbassare il valore medio del titolo che ho in carico? Diciamo che magari in qualche operazione potrebbe essere anche questa una logica che qualche piccolo risparmiatore può seguire e quindi mediare su valori di carico che sono indubbiamente molto alti. Mi ero portata anche un foglio, adesso lo ritrovo, sui prezzi massimi che Unicredit ha raggiunto negli ultimi anni. Ecco qua, eravamo il 30 aprile del 2007 a 7,59 euro, nel marzo del 2009 questo titolo ha toccato i 72 centesimi, se non ci fosse stato l'accorpamento delle azioni della scorsa settimana in questo momento varrebbe addirittura 48 centesimi. Allora Ottavio, giro la sua riflessione ad Antonio Tognoli di Integra Sim. Sì, sicuramente, beh, intanto i 7 euro che dici tu in realtà sono 70 per con raggruppamento. No, mi sembra di intuire quello. In realtà sì, si fa per abbassare il prezzo medio, anche perché visto il calcoletto che abbiamo visto prima, che in realtà è un'azione per il prezzo prima dell'aumento più 2 per 1,943 diviso 3, risolvendo questa semplicissima operazione si arriva al prezzo ex teorico, come ricordava lei. Il TERP. Prezzo ex teorico arriviamo a 2,92, che è sicuramente minore di 1,943, quindi è chiaro che io abbasso il mio prezzo medio di carico. Poi però, ripeto, non è che lo devo abbassare basta, perché coi soldi che do in questo momento il capitale devo capire quali sono le mie alternative di investimento. Quindi tutto quello che dicevamo prima rimane valido, quindi piano industriale, che fa il management, attività tedesche e quant'altro. Quindi decido di fare l'aumento, sì, abbasso il prezzo medio, ma devo essere ben conscio che quelle cose che io chiedo a Unicredit in quanto azionista devono essere soddisfatte. Cioè voglio sapere che ne fa dei miei soldi, voglio sapere cosa fa delle attività tedesche e voglio sapere come intendi incrementare la redditività complessiva della banca. Allora, intanto, per continuare sulla scia delle cattive notizie da dare questa mattina, vi comunico, e questo già io così immagino che potrà essere un tema che approfondiremo stasera a Focus Economia, che l'Ungheria non è riuscita a vendere l'intero ammontare di titoli di Stato in programma nell'asta di oggi, fermandosi a 35 miliardi di fiorini contro i 35 programmati. I tassi sui titoli annuali sono volati e hanno raggiunto il 9,96% contro il 7,91% dello scorso 22 dicembre. Allora, così magari cercheremo anche nei prossimi giorni di tornare a riapprofondire la situazione dell'Est Europa, che da qualche tempo era un po' sparita dalle cronache finanziarie generali e adesso a quanto pare invece c'è anche questa situazione che ritorna a fare capolino tra le pagine della finanza e dell'economia dei quotidiani e non solo. Allora sentiamo un altro ascoltatore, sentirei Alessandro da Belluno, ce ne sono due di Alessandri in linea, cominciamo con il bellunese, buongiorno. Ah, buongiorno e buona giornata a tutti. Grazie, buongiorno. Io sono un vecchio azionista Unicredit, nel senso che le ho da una decina d'anni, quindi le ho da tanti anni. Ho sempre fatto questi aumenti di capitale, ma con l'ottica non tanto di vedere poi cosa faceva Unicredit con i miei soldi, ma per abbassare la media, perché l'avevo talmente alta. Infatti, che quello che dicevamo prima, insomma, la mediazione. Quindi io credo che anche in questo caso gli sconti sono veramente partiti prima dell'epifania, perché a questi prezzi uno non è che può star là a pensare cosa fare e cosa non fare, ti tocca farlo se hai la possibilità di avere i soldi, perché come io per esempio che le avevo ex raggruppamento a 1,05 euro, adesso le avrei a 15 euro, no? Facendo un calcoletto, quel famoso calcoletto che avete fatto prima, se faccio l'aumento di capitale arrivo ad averle a 6 euro, sarebbero i 60 centesimi vecchi. Se non lo faccio me le tengo a 15 euro e non le vedrò mai a quei prezzi là. secondo me, insomma. Beh, diciamo che, certo Alessandro, in ogni caso lei si è fatto un po' un suo ragionamento, un suo calcolo per capire se, come dire, intanto dare fiducia all'operazione, alla banca, alle prospettive indicate che non sono chiarissime come lamentano gli investitori e gli analisti, e poi ecco, ha fatto anche un calcolo del suo portafoglio, sempre naturalmente ben tenendo presente il fatto che speriamo che, anche se siete un po' preoccupati, questa operazione non è chiarissima perché non è immediata, naturalmente, che non sia l'unico asset investito del vostro portafoglio. Valeria, allora, rispetto alle considerazioni fatte fino a questo momento, secondo te è corretta la logica di chi decidesse di aderire all'aumento di capitale per mediare il prezzo di carico, perché comunque mi pare di capire che la platea di chi ce l'ha sul groppone a prezzi piuttosto alti sia molto ampia? Ma diciamo che in linea di principio sicuramente il ragionamento è giusto. Il problema è che però questo dà già per scontato che il titolo in futuro recuperi, proprio perché Unicredit a questo punto dovrebbe mettere in atto una strategia, un piano industriale di crescita che potrebbe comunque fargli recuperare anche le quotazioni di borsa, proprio perché comunque questi azionisti li avrebbero in carico a dei prezzi superiori a quelli di mercato in ogni caso, per cui sì, un prezzo di carico medio più basso rispetto a quello di prima, ma comunque più alto rispetto a quello di borsa, quindi si scommette su un recupero. Attenzione, il piano industriale Unicredit l'ha fatto, ha fatto un piano industriale a novembre quando ha annunciato questo aumento di capitale. Al momento però il mercato, perlomeno la platea degli analisti, non sembra diciamo essere così certo che questi target verranno raggiunti, perlomeno i target più vicini, che sono quelli al 2013. Infatti Unicredit si è prefissa di raggiungere nel 2013 un utile netto di 3,8 miliardi, mentre attualmente secondo la banca dati FactSet, che raccoglie le stime di una trentina di analisti che seguono il titolo Unicredit, queste stime sono sempre per il 2013 intorno a 3,3 miliardi di utile. Quindi sarà inferiore addirittura al target che la stessa banca si è data. Questo è al momento il sentiment del mercato. Il problema purtroppo è che da qui al 2013 non c'è ancora molto tempo. Ah, dimenticavo, oltre al fatto che per le svalutazioni sopra citate, ma probabilmente anche per altri motivi, per l'esercizio appena concluso non vi sarà distribuzione di dividendi quest'anno. Ecco, infatti, per cui anche chi volesse aderire all'aumento di capitale, anche in un'ottica di un flusso cedolare interessante, quest'anno Piazza Cordusio lo ha già messo da parte, questo progetto, appunto, per i suoi azionisti. Volevo anche ricordare però un'altra cosa: adesso stiamo veramente disegnando uno sfacello per tutti, non è una bella situazione, abbiamo già spiegato quali sono stati i top del valore di questo titolo, ma anche i minimi toccati nel culmine della crisi provocata dai subprime americani, quando la borsa nel marzo del 2009 aveva toccato i suoi minimi da 12 anni a questa parte. In quel periodo Unicredit valeva 72 centesimi, ma nel giro di un anno e mezzo Unicredit è ritornata a 2 euro, 2,50 euro, se non mi ricordo male, forse anche in un paio d'anni. Nel 2011, forse all'inizio dello scorso anno, valeva intorno a questa cifra, per cui chi ha avuto un po' di sangue freddo e aveva acquistato il titolo su quei valori, sicuramente già una operazione di mediazione del valore di carico l'aveva fatta. Poi chiaramente magari non tutti, anche per timore, aveva colto quell'opportunità, perché effettivamente la discesa del titolo era stata molto forte, molto netta. Anche un altro valore, nel settembre del 2008 valeva 3,60 euro il titolo, questo per spiegare come fosse sceso tanto nel giro di settembre 2008, marzo 2009, appunto nel giro di 8 mesi praticamente aveva avuto una discesa enorme, assolutamente drastica. Allora, c'è un ascoltatore, Mauro da Roma, che ci scrive: cosa succede se l'aumento di capitale non viene interamente sottoscritto? Diciamo che sono circostanze che tutte le società prendono in considerazione. Proprio per questo, Antonio Tognoli, vengono costituiti i cosiddetti consorzi di garanzia, no? Che sono formati da primari, istituzioni finanziarie che garantiscono da questa eventualità. Esattamente, anche in questo caso c'è un consorzio di garanzia che appunto si chiama di garanzia, perché nel momento in cui i 7 miliardi e mezzo dovessero risultare non sottoscritti, supponiamo per 2, 3, 4 miliardi, il consorzio di garanzia metterebbe la parte rimanente non sottoscritta. C'è un limite oltre il quale il consorzio di garanzia dice no, guarda, oltre questo di inoptato io non te lo sottoscrivo? O c'è si impegna un limite consorzio per consorzio. In questo caso credo che non ci sia, ma è abbastanza irrealistico pensare che non venga sottoscritto in toto. Quindi a quantomeno questa certezza ce l'abbiamo. Salva Danaio. Allora, Salva Danaio ritorna sull'aumento di capitale di Unicredit che parte lunedì prossimo, si conclude il 27 gennaio, fino al 20 gennaio c'è però il tempo di decidere che cosa fare dei diritti di opzione relativamente alla sottoscrizione di questo aumento di capitale. Allora, ci sono altri ascoltatori appunto che vorrebbero farci la loro domanda, sentiamo un po' Alessandro da Roma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Alessandro, benvenuto e buon anno. Grazie anche a voi. Dunque, io non sono azionista Unicredit, mi chiedevo se aveva un vantaggio, un valore comprarle adesso o forse invece è meglio aspettare la fine di questo aumento di capitale, perché non so, non avendo nessuna opzione o nessuna cosa, ha senso in questo momento comprarle, anche se obiettivamente potrebbe averlo visto che è calato così tanto. Ma... Beh, sa come Alessandro, vale un po' tutto il ragionamento che abbiamo fatto all'inizio. Per quale motivo fa questo investimento? Non è che si deve fare un investimento solo perché una società è sotto aumento di capitale e il titolo va in un certo modo. L'investimento azionario, come in quello obbligazionario, come la scelta di una polizza vita piuttosto che di un fondo di investimento, almeno nella mia testa, si fa se si ha una logica in testa di destinazione del proprio risparmio. Detto questo, se invece vogliamo fare Antonio Tognoli, le faccio fare proprio l'analista, un ragionamento puramente finanziario, lei che cosa risponderebbe ad Alessandro, anche se ho già capito qual è la sua idea rispetto alle prospettive industriali del gruppo, le sue incertezze, i suoi dubbi, per cui non lo so, lei forse suggerirebbe di non, di non tenersi tanto vicino alla società adesso, ma non va bene. La cosa, ovviamente, quando poi parlavo di piano industriale, è vero che l'ha fatto, ma un conto è dire genericamente faccio un piano industriale punto per punto, altro conto è dire adesso 7 miliardi e mezzo in tasca. Comunque, Chiuso questo, no, il tecnicismo qui dell'aumento è un po' quello che dicevamo all'inizio, normalmente è chiaro che questo investimento è assolutamente speculativo, quindi ad alto rendimento corrisponde alto rischio e questo chi lo fa evidentemente deve saperlo, deve essere ben conscio. Normalmente da manuale prevede che nel momento in cui viene quotato, nel momento in cui stacca il diritto, quindi intanto per intenderci lunedì, fino a quel momento il titolo normalmente scende e poi bene o male si stabilizza fin tanto che l'aumento è concluso, quindi potrebbe essere il caso di comprarsi i diritti appunto perché magari uno comincia a venderli e il prezzo del diritto scende i primi giorni, però come diceva giustamente ricordava Valeria, potrebbe non essere il caso che tutti i primi giorni vendono perché stanno a vedere, quindi veramente un terno al lotto, è un investimento come dicevo decisamente molto speculativo. Allora io stavo intanto cercando qualche altra domanda per capire se prendendone una possiamo dare voce a più ascoltatori. Allora sì, possiamo prendere questa, adesso non mi ricordo chi l'ha fatta, però c'è un ascoltatore, un'ascoltatrice che chiedeva: io ho obbligazioni Unicredit e un altro ancora, che cosa succederà al mio conto corrente? Ah, Antonietta, eccola qua, sì l'abbiamo, no perché c'era la domanda sbagliata scritta. Antonietta da Roma, buongiorno, mi scusi, non volevo bruciarle la domanda, ma ci dica tutto. Ah, ecco, buongiorno, senta, io stavo ascoltando la vostra trasmissione e dato che ho delle obbligazioni Unicredit, scadenza, capitale garantito, e lo so che azioni e obbligazioni sono cose diverse, però mi sono preoccupata. Volevo sapere come comportarmi, ecco. Antonietta, allora diciamo che lei non deve proprio preoccuparsi di nulla perché l'obbligazione, la banca sta facendo un po' di sacrifici, sta chiedendo soldi ai soci, ma è abbastanza in acque tranquille direi, e l'obbligazione ha una vita sua rispetto all'azione, e Valeria Novellini, se mi vuoi aiutare, quindi questo prodotto verrà restituito regolarmente a scadenza con un flusso cedolare se questo glielo riconosce, con un tasso di interesse che evidentemente sarà stato già concordato dal prodotto di investimento. Ovviamente sono due cose molto diverse perché l'azione si sa è capitale di rischio e l'obbligazione invece è capitale di debito che di cui la banca in questo caso, a meno appunto di un default, è tenuta alla restituzione. Quindi Parentesi, questo aumento di capitale, oltre che richiesto per rispettare i parametri patrimoniali, diciamo che è importante per un altro motivo. Abbiamo già detto più volte che Unicredit è l'unica banca italiana a cui è stata riconosciuta la qualifica di SIFI, cioè società di investimento rilevante a livello sistemico, fra le principali banche mondiali. Questo è importante perché a queste banche, però, a partire dal 2016 saranno richiesti dei requisiti patrimoniali aggiuntivi rispetto agli altri istituti di credito, ma già dal 2012 queste banche devono fare in modo di proteggere i risparmiatori da eventuali default. Quindi questo aumento di capitale, come anche le altre operazioni che Unicredit farà di razionalizzazione eccetera, comunque sono e devono essere specificamente mirate a una maggior tutela dei risparmiatori. Antonio Tognoli, nel frattempo, così tanto per dare un'accelerata ulteriore verso il basso al titolo Unicredit, le comunico che lo spread fra il BTP e Bund è a 520 punti base e il tasso di rendimento del BTP decennale è ben oltre il 7%, così intanto un po' peggioriamo la situazione, no? Di questo portafoglio di titoli di Stato che Unicredit ha, che credo forse sia la banca che ne ha il portafoglio più ampio. Se non in Italia, forse intesa San Paolo c'ha qualcosa di più, insomma. Vabbè, detto questo, meno 11-17% adesso per il titolo di Piazza Cordusio. Le banche vanno tutte malissimo: meno 7% per il Banco Popolare, meno 6,72 per UbiBanca, meno 6,5 per Intesa San Paolo, meno 6,38 per Monte dei Paschi, meno 5,43 per la Popolare dell'Emilia Romagna. Certo che pure quando Mediobanca fa meno 5,38 un po' i dolori si alzano. Popolare di Milano meno 5, il listino meno 3%. E secondo lei, Tognoli, tutto questo effetto anche sugli altri titoli bancari, magari per riprendere un po' il ragionamento che facevo all'inizio, è tutto riconducibile proprio anche ad un effetto Unicredit, cioè dell'altro, cioè magari anche questa osservazione delle aste di titoli di Stato a livello internazionale che fa ritornare un po' di preoccupazione di nuovo, se mai si fosse sopita, sulla condizione del debito sovrano europeo? È un nì la risposta, nel senso che da una parte forse ci si era dimenticati che l'EBA, quando ti dice voglio 106 miliardi a livello europeo entro giugno, vuol dire che entro giugno devono essere fatti. Abbiamo visto Santander, abbiamo visto altre banche, e questo riaccende un po' i riflettori sul fatto che le banche, bene o male, devono fare aumenti di capitale da una parte, ma come abbiamo visto con Unicredit, ma probabilmente ci saranno anche le altre, la distribuzione del dividendo sarà più bassa. Ma, e qui è la cosa che mi preoccupa di più, al di là poi del fatto che le banche abbiano in pancia più o meno titoli di Stato, che ovviamente per carità è importante, ma qui voglio dire i prezzi salgono, scendono, quindi magari adesso sono minus, fra x due anni, un anno saranno plus. Ma al di là di questo, che mi preoccupa relativamente poco, non è che non mi preoccupa, vuol dire relativamente poco, quello per il quale sono maggiormente preoccupato è la ripresa economica reale che le banche, in quanto, voglio dire, banca, cinghia di trasmissione fra la politica monetaria e l'economia reale, e devono riattivare. E qui il punto fondamentale. Infatti, cioè, che non riattivano niente, anche i soldi presi dalla BCE continuano a depositarli presso la Banca Centrale Europea. Esattamente, questo è il punto fondamentale. Anche perché è chiaro che la banca di un paese non è altro che il riflesso di quel paese stesso. Quindi, se il paese, l'Italia, ma anche altri paesi o l'Europa, non rimette in moto l'economia reale, e le banche sì possono fare tutti gli aumenti di capitale che vogliono, l'EBA può chiedere tutti gli aumenti che vuole, ma non si arriverà mai a, tra virgolette, tranquillizzare, normalizzare il mercato bancario e il mercato del debito di quel paese. C'è anche un'altra questione che non abbiamo sollevato, ce la giustamente solleva un ascoltatore che ci scrive su Facebook, Sergio, che dice, a parte il portafoglio di titoli di Stato e il peso di questa zavorra che Unicredit ha, a parte il fatto che ha dovuto svalutare tutte le partecipazioni nelle altre grandi società, citavamo prima Generali, ma ci sono anche altre società in cui Unicredit ha una partecipazione in certi casi anche rilevante, che presto deve fare delle ricapitalizzazioni. Cara, scuota la testa Valeria Novellini, qua parliamo del grande gruppo assicurativo italiano Fondiaria, e quindi Unicredit dovrà pure aderire a quell'aumento di capitale, all'aumento di capitale di un'altra azienda che gli costerà pure qualcosa, però insomma anche questa sembra un altro sacrificio che questa banca deve fare. Che dici, Valeria? Sì, certamente sì. Per quanto riguarda Fondiaria, a questo punto si era innescata la speculazione, addirittura ipotizzando una possibile fusione con Unipol, che è stata poi smentita, ma premettiamo che molto probabilmente sarebbe un'operazione che sarebbe stata comunque stoppata dall'antitrust. Per quanto riguarda la partecipazione di Unicredit all'aumento di capitale di Fondiaria Sai, che ormai sappiamo ci sarà e che sarà fra 600 e 750 milioni, sicuramente sono somme rilevanti, però a vista la grandezza dell'aumento che per ora sta facendo Unicredit, diciamo che sono relativamente meno preoccupanti. Il vero problema è proprio quello di scommettere sulla futura redditività e ripresa della banca e del sistema economico italiano. E per quanto riguarda Unicredit, però, volevo ricordare che proprio pochi giorni fa Unicredit ha annunciato che intende destinare 1 miliardo al finanziamento di piccole e medie imprese e comunque al sostegno dell'economia italiana. Speriamo che lo facciano davvero. Certo, gli accordi, i protocolli grandi con Confindustria ci sono, le banche le hanno fatte ripetutamente anche negli ultimi 2 anni, poi speriamo però che alle aziende non si chiedano, come dire, dei requisiti troppo stringenti per poter allentare il cordone della borsa. Volevo sentire l'ultima domanda, che è quella di Alessandro da Bergamo. Io non so se è un caso che questa mattina, tu evocando un po' profumo, ci sono stati tanti Alessandro che ci hanno chiamato. Valeria ride, ma mi è venuto un po' questa riflessione da fare stamattina. Alessandro Bergamasco, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per avermi grazie chiamato. A lei, se ce la fa rapidissimo che stiamo chiudendo, grazie. Sì, ecco, io ho questo Unicredit, ha un piano di accumulo di 20 euro, quindi piuttosto elevato. Probabilmente aderirò all'aumento perché se no la perdita sarebbe troppo elevata. La mia domanda era, ma nel caso in cui non dovesse aderire all'aumento di capitale e si vendono i diritti, il piano medio di accumulo rimane ancora uguale o aumenta? Ma ha un piano di accumulo su che cosa? Su titoli Unicredit? Non su ho capito. Unicredit, cioè un pack euro. Su titoli di 20 euro? Come? Cioè lei fa mensilmente un versamento attraverso un piano di accumulo per acquistare titoli Unicredit? Non ho capito come funziona questo. No, è il mio piano medio di accumulo è 20 euro praticamente. Ah, è il prezzo medio di carico. Ah, prezzo medio di carico. Avevo capito un piano di accumulo. Stavo meditando su una modalità di sottoscrizione dei fondi di investimento che non capivo come si potesse sposare con un investimento in una singola azione. Alessandro, sì, grazie. Sì. Cosa, rapidissimo, non ce la faccio. Alessandro, ci scriva, le rispondiamo nella mail. Salvadanaio @radio24. Valeria, vuoi concludere con una risposta a questo ascoltatore? Beh, naturalmente il prezzo di carico si ridurrà, ma di pochissimo, perché se lui venderà i diritti. Mettiamo pure che li recupera, esatto, quindi il prezzo di carico sarà 20 euro meno la media dei diritti che venderà. Si abbasserà di pochissimo, per cui praticamente comunque ci sarà una grossa differenza con i prezzi del titolo in borsa, ma questo anche se sottoscriverà non cambierà, ma non di molto. Benissimo, Tognoli, grazie per essere stato con noi, buon anno. Grazie a voi, speriamo buon anno. Prima o poi di chiamarla anche per raccontare di operazioni di borsa divertenti e incoraggianti per i nostri investitori, ma ancora non è tempo. Grazie alla Valeria Novellini, noi ci fermiamo, grazie a Pietro Lacorte, a Marco Lombardi. Mauro l'ho chiamato oggi, sì, sono ubriaca, per la collaborazione in redazione. Probabilmente ci sentiamo fra qualche istante nel giornale radio e anche stasera a Focus Economia. Buona giornata.